tutta la notte il telefono, assieme a quella grande bagassa mamma tua, e fallo sentire a quella grande bagassa mamma tua, vai, fallo sentire a quella grande bagassa mamma tua. Vabbè, vaffanculo, parlati da solo, o parlati con quella grande bagassa mamma tua, brutto coglione.